24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ci siamo anche oggi, siamo qui alle 6.33 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci, siamo in diretta fino alle 9, ben svegliati, se vi siete svegliati da 3 minuti state mettendo sul caffè, cappuccino, non lo so, cosa mangiate? Il nostro alpino Peter Bescapelli si farà 7 fette di marmellata, almeno burro e marmellata, questo come minimo. Allora, siamo in diretta fino alle 9, saluto anche Alessandro Longoni in redazione e siamo pronti ad aprire il nostro bar qui a Radio 24, nostro bar open per tutti. Non rispondo a nessuna domanda. Non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondo? Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, quello. Eccolo qui, già allora la moca, perché noi qui abbiamo la moca, siamo lenti, siamo slow. La moca offerta da Nicole Minetti oggi, la vogliamo offrire. Che ci fa sveglia a quest'ora? Selvaggia Lucarelli, buongiorno, ben svegliata. Buongiorno, pur di far colazione con la Minetti io mi sveglio anche all'alba. Hai visto, Pur di far colazione con la Minetti, insomma, facciamo portare il caffè a letto da Nicole Minetti. Dalla mia amica Chips. Hai visto Love of my life. Belle, tra l'altro un'imitazione spettacolare ho visto. Ma perché si sono incazzati quelli per l'imitazione? L'hai vista in TV? Sì, l'ho vista. Ma devo dire che io alla fine l'ho trovata divertente, ma abbastanza innocua, nel senso che mi pare che sia, poi l'ho anche scritto, mi pare che sia più parodia la Minetti della sua parodia. No, quindi, infatti, straordinario. Come ha colto la Vittoria Cabello, sei un po' basic davanti, backstage, ok. sì, ma cioè, se conosci quella tipologia di donna sono esattamente così, non c'è un'esagerazione, sono esattamente quello. Non le conosco comunque quella tipologia di donna, ma insomma vabbè. Comunque Selvaggio Lucarelli scrive su Libero, nota blogger, opinionista, è con noi anche Alessandro Giglioli, un gradito ritorno, buongiorno e ben svegliato. Buongiorno, Alessandro, con il suo piovono rane. Allora, io vi vorrei subito far parlare di qualcosa di importante che sta succedendo nel mondo, perché qui rischiamo la guerra, ma non sto parlando di alcuni fanatici islamici, che rischiamo la guerra per un paio di tette, è inutile negarlo, oggi ancora i titoli sui giornali, fuori di seno, i reali denunciano Mondadori, vogliono arrestare i direttori. Questo è il titolo di Libero, il Fatto Quotidiano, cioè voi lo immaginereste mai un giornale così serio? Il Mondo col fiato sospeso per le tette di Kate. Repubblica, via alla guerra dei Windsor, doppia querela per il seno di Kate. Insomma, l'avete capito, stiamo parlando delle foto che sono apparse anche su Chi e che la Mondadori, dunque Silvio Berlusconi, ha messo in prima pagina di Kate Middleton. Sapete come è stata accolta ieri Kate? Tu Selvaggio forse hai seguito. Ieri sono dall'altra parte del mondo, alle Isole Salomone, e sono state accolte da delle signore, insomma, delle in topless. E ovviamente Kate Middleton è scoppiata a ridere quando la tradizione ha imposto a queste ragazze di accogliere la principessa in topless. Ma non stiamo uscendo di senno, anziché di seno, Selvaggio? Sì, c'è una follia intorno a questa questione preoccupante, nel senso che trovo incredibile questo improvviso amore per la privacy da parte di un paese che poi, insomma, l'Inghilterra, che ha il gossip più aggressivo, più invasivo, più invadente del mondo, non hanno avuto nessuno scrupolo nel pubblicare, che ne so, le foto di Kate Moss, le famose foto di Kate Moss con la cocaina, con tutto, che erano state scattate all'interno, tra l'altro, di un'abitazione privata, la Ferguson, mi ricordo Sara Ferguson, no? Con l'amante che le ciucciava questo famoso ditone del piede, e tutta una serie di intercettazioni anche, insomma, utilizzate in maniera molto spregiudicata, nel caso News of the World è recente, fresco, utilizzarono intercettazioni che riguardavano tra l'altro anche il rapimento di un bambino, sì. Quindi che improvvisamente si fermino di fronte a un paio di tette, tra l'altro modeste, vabbè, vabbè, ma è la principessa, voglio dire, la futura regina, cioè, capito, si può vedere una futura regina così, sì, dice. Ma ce l'ha anche lei, e tra l'altro insomma, mi sembra ipocrita del tutto, anche perché oggettivamente è incredibile pensare ad una distrazione di Kate, una che vive con i paparazzi incollati dalla mattina alla sera, che tutto sommato insomma, si toglie il reggiseno in un'abitazione che è in Provenza, una casa probabilmente insomma, delle vacanze, no? Mm-hmm. Quindi gli avvocati qui dicono era assolutamente invisibile ad occhio nudo, è stata ripresa con un'invasione della privacy, con un teleobiettivo. Vabbè, questa è la strategia difensiva. Hanno fatto i test, gli avvocati. Ma arriveremo anche a questo, no? Ma in tutto questo, Alessandro, c'è anche una questione che è diventata molto seria. Tu hai letto la vicenda, tu scrivi anche sull'Espresso, hai la questione e la posizione di Repubblica, è una posizione che oggi Alfonso Signorini, direttore di Chi, in un'intervista Libero dice: ma per favore, dagli agiografi delle olgettine non mi aspetto certo la morale. Cioè è diventata una questione anche di conflitto di interesse. Repubblica l'ha messo su questo, cioè il proprietario di Mondadori, Berlusconi, fa uno sgarbo ai reali d'Inghilterra. Ma siamo scesi a questi livelli, cioè doverla pensare così, Alessandro? Ma guarda, io se posso ti rovescio il cannocchiale. Quando noi all'Espresso abbiamo pubblicato delle foto, tra l'altro meno palesi di quelle di Berlusconi con alcune ragazze nella sua villa in Sardegna, fatte esattamente nello stesso modo, cioè con il teleobiettivo, non c'erano tette, fra l'altro, noi ci siamo trovati i carabinieri in redazione mandati da Berlusconi medesimo. Quindi è un po' singolare questa posizione del proprietario di Mondadori, che con una mano rivendica il diritto a pubblicare sui suoi giornali le tette della signorina inglese, con l'altra mano ci ha mandato i carabinieri. Cioè, io vorrei far notare che ci sono ancora tutt'oggi delle foto di Zappadu, che era il fotografo, sì, le cui immagini abbiamo acquistato anche noi, delle foto che sono tutt'oggi sequestrate e non visibili in nessun luogo del mondo, stanno soltanto in un disco fisso del computer di Zappadu, perché sono state sequestrate perché Berlusconi non ne ha voluto la pubblicazione, si trattava sempre di fotografie, sì, private. E va bene, ma l'idea che ha lanciato Repubblica, che ci sia stato proprio uno sgarbo, cioè che Marina Berlusconi, che è la figlia di Berlusconi, che è anche però presidente Mondadori, ha rivendicato la propria indipendenza, come dire, Berlusconi si occupa di politica, adesso neanche poi così tanto, ma comunque si occupa di politica. Si è occupato anche di quella a lungo. Si è occupato anche di quella a lungo e non si occupa certo di scatti fotografici. Cioè, io non capisco, Alessandro, non capisco quale possa essere l'interesse, il conflitto di interessi di Berlusconi del mettere in difficoltà i reali d'Inghilterra. Cioè, no, questo mi sfugge. Cioè... Alessandro, io non sono un grande esperto di cose reali, proprio non è che so a stento chi è Kate, l'ho appresa quando si è sposata, e quindi non ho la più pallida idea se vi siano o non vi siano delle strategie di Berlusconi di innervosire o meno la familiare. Devo dire che in questo quadro, mi interessa anche pochino, è un po' più interessante notare, oltre all'aspetto paradossale che facevo notare prima, il fatto che questa esplosione di interesse intorno al gossip avvenga adesso, insomma, siamo in una fase in cui in tutto l'Occidente c'è una grandissima crisi economica, c'è una situazione di incertezza sul futuro spaventosa. Guarda, è come negli anni 50, quando sono sorti i grandi giornali come Gente Oggi, sono sorti dopo la guerra, in un momento in cui la gente voleva distrarsi. Come con la fantasia e con vicende che riguardavano persone felici e ricche e belle, diciamo così, dalle proprie miserie. Non siamo, ahimè, purtroppo nella ripresa dopo la guerra, siamo in una situazione, se vogliamo, di guerra dal punto di vista economico, sì, ci si distrae in questo modo. No, ma sta di fatto, adesso poi magari vedremo anche i titoli dei giornali, sono declinati. Anche parlarne, perché la mattina presto non si può certo parlare del infatti, ma tra poco guarda. No, ma posso dire che lo scambio di battute che è esilarante, cioè che la casa reale di dica ma noi quando Berlusconi ha commesso le varie intemperanze, cioè abbiamo chiuso un occhio, l'abbiamo comunque accolto a passo, cioè fa ridere, sono però, dialoghi. Però Selvaggia, devo dire che la vicenda anche in Inghilterra è molto presa sul serio, cioè la stampa inglese ha attaccato Berlusconi dandogli del traditore. Major, l'ex premier, ha detto se lo incontrassi non sarebbe una bella chiacchierata quella con lui, e addirittura il direttore dell'Irish Daily Star, che si è permesso di mettere le foto quindi in Irlanda, è stato licenziato in tronco dal suo editore per aver messo queste foto della principessa. Cioè noi qua ci scherziamo anche ed è giusto, però lì non ci scherzano molto sulla principessa Middleton e sulla futura regina. Credo che dormirò questa notte al pensiero insomma che signorini possa essere licenziato, ci dormirò comunque sopra, sì, però. Sì, ci dormiremo tutti. No, questo sì. Però effettivamente mi sembra il tutto un po' sproporzionato. Ecco, allora io vi devo leggere i titoli dei giornali che intanto ci sono stati consegnati. Devo dire che sono molto sulla Fiat, la Repubblica, tra l'altro intervista a Marchionne e zio Mauro, la Fiat resterà in Italia, un'interessante intervista, poi nella rassegna stampa alle 7:20 la vedremo. Marchionne torna tra le polemiche, anche il Corriere della Sera. Libero invece, basta con la Fiat, questo è il titolo. La Stampa, l'Italia sta facendo bene, della Merkel. Le esportazioni vanno bene, così è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Poi c'è tutta la vicenda di Roma, Polverini, di Quattrini, questo per esempio è il titolo del Fatto Quotidiano. Allora io vi vorrei fare due domande appunto su questo. Io poi ne parlerò alle 8:30, avremo il presidente del Consiglio regionale del Lazio. Lì la questione si può declinare molto, molto brutalmente così. Mentre la gente fatica ad arrivare alla fine del mese, lì si fanno ostriche e champagne, festini e BMW e smart comprate coi soldi nostri. Allora, questa cosa, Selvaggia Lucarelli, cosa deve far pensare una persona, un italiano che si è svegliato adesso e che sta andando a lavorare? Ma guarda, diventa, di fronte a questo diventa poi facile capire perché le campagne elettorali si fanno a suon di renziani rottamare o di grillini distruggere, che sono questi i primi verbi che vengono in mente, perché poi è una storia sì di ruberie ovviamente indecenti, ma proprio di, posso dire, di volgarità diffusa. Beh, abbastanza, cioè, anche fisionomicamente. Anche esatto, lombrosianamente proprio parlando, no? Cioè trasuda volgarità, proprio la volgarità della faccia di Fiorito, delle spese folli, ma anche dell'arroganza con cui le giustificava, no? Quella proprio sciatteria. Poi mi ha colpito molto anche la volgarità, tutto sommato, della strategia di difesa in questo momento, che va bene, è confusa e tutto il resto, ma con tutta una serie di riferimenti un po' beceri, cioè la Polverini che arriva e dice non mi posso dimettere, altrimenti arrivavo qui con un paio di ciabatte e andavo al mare, ho trovato sgradevolissimi anche i riferimenti ai tumori, alla Concordia, all'alluvione di Firenze, no? Suonano proprio si è utilizzato sonati. Delle immagini molto tragiche. Beh, una anche molto personale, avendo tolto un tumore di recente, sì, ha detto insomma, dobbiamo toglierli come li ho tolto io dalla gola, cioè. Sì, come io li ho estirpati dalla gola, insomma, che tutte cose in questo momento suonano anche piuttosto strumentali, no? Piuttosto ipocrite, volgari, senza nulla togliere ovviamente al dramma che ha vissuto, quindi viene proprio anche in mente la parola volgarità. Alessandro, questa cosa della Regione Lazio, adesso si sono dati sette giorni pare per fare i tagli, dalla lettura dei giornali mi sembra un po' così un maquillage per cercare di salvare il salvabile, ma la gente comune lo percepisce così, questi politici fannulloni e scrocconi se fanno gli ostriche e champagne e noi stiamo qui a soffrire la questione della crisi. Quanto c'è di populismo, quanto c'è di reale, perché poi da una storia non è che si può trarre tutta una considerazione generale, oppure è tutto così? Si può trarre, nel senso che traiamola allora. I consiglieri regionali, ma non solo regionali, sono abbondantemente finanziati, troppo finanziati, questo l'ha detto Fiorito, non lo dico io, troppi soldi arrivavano e ha perfettamente ragione. Giustamente in questi giorni si è puntato l'indice sulle spaventose spese pazze del PDL. Da persona di sinistra faccio sommessamente notare che anche nel PD ci sono state case di sprechi, sempre a livello laziale sto parlando, abbastanza inquietanti, pizzerie, falsi incontri con gli elettori che in realtà erano grandi magnate al ristorante, Anche acquisti in un'enoteca e poi ha detto abbiamo fatto regali bambini, ai bambini, il vino ai bambini, piccoli alcolisti anonimi crescono. Ma dai. A me ha fatto morire da ridere anche l'incontro con gli elettori laziali del PD che si è svolto a Cortona, che è in Toscana, cioè sono cose abbastanza singolari. Questo perché girano troppi soldi alla politica. Allora, io tutte le volte che parlo anche con i miei amici che fanno politica, mi ripetono la stessa cosa che tante volte ho sentito ripetere anche dai tuoi ospiti o dagli ospiti di Cruciani di Radio 24, cioè non è tagliando i costi della politica che si risanano i bilanci dello Stato. È vero, certo, lo sappiamo benissimo che i costi della politica rispetto ai 2.000 miliardi di debito pubblico sono poca cosa, ma non capiscono il valore simbolico, il fortissimo valore simbolico che ha una politica sobria rispetto a una politica opulenta, una politica ma chi questo forse lo capisce Monti, ma hai sentito Franco Fiorito, gli ha detto sì avevo diritto all'auto blu ma c'ho il SUV, ne avevo bisogno. Questo valore simbolico stacca i cittadini fortemente dalla democrazia rappresentativa. Se la democrazia, scusami se ti ho interrotto Alessandro, ma se la democrazia rappresentativa è così in crisi è anche perché i politici non capiscono lo spaventoso valore simbolico, metaforico, immaginifico, narrativo, drammaturgico, chiamalo come vuoi, di una quantità di denaro assolutamente sproporzionata che va ai partiti per le loro riunioni, per le loro feste, per i loro ritrovi, per i loro regali, per le loro mogli, per le loro amanti. Sì, sì. Allora non si risanerà il bilancio dello Stato, ma si crea, come dire, un'ecologia della politica se si tagliano molto drasticamente questi soldi. Sì, i soldi e anche le regole. Non so, Selvaggia, siamo noi italiani che siamo farabutti oppure l'occasione fa l'uomo ladro? E poi ti volevo fare una domanda su questo, ma ci sono sempre dentro le feste con le ancelle, con le donnine, ma sempre lì poi si va a cadere, no? Il politico italiano o l'uomo italiano, poi sempre lì va a cadere. Cioè... credo che sia un problema dell'uomo italiano. Sì, non tanto al politico, cioè feste e festini con i soldi nostri, ma... anche se lì insomma l'occasione probabilmente trasforma, non dico anche l'uomo più integerrimo, ma in qualche modo corrompe e inquina anche l'animo un po' più puro probabilmente, però sì, il valore simbolico è fondamentale, credo che in parte si sia compreso, ho visto vacanze più sobrie quest'anno, no? E quindi dopo il famoso Capodanno alle Maldive dello scorso anno con Fini e Casini, insomma con questi vassoi di frutta e champagne sulla riva del mare, ecco, quest'anno ho visto, a parte il famoso caso Fini e tutta la polemica sulla scorta, però ho visto un'attenzione particolare proprio a questo. Poi sobrietà. C'è anche la consigliera, hai letto della consigliera pare nota perché va in giro ai Parioli con i pulsini in visone e che si è fatta il book fotografico da 1.000 euro con i soldi nostri, ovviamente. Perché c'è. Ma poi che book fotografico si deve fare una consigliera? 1.000 euro. Beh, lascia stare, magari poi... arriva tanto. No, vabbè, non lo so. In ogni caso, io vi ringrazio. Volete ricordare il vostro account su Twitter? Selvaggia Lucarelli è seguitissima. Ce l'hai su Stanza Selvaggia. Questo c'è Stanza Selvaggia. È un po' torbido, è un po' ambiguo. Ambiguo. Grazie, Selvaggia Lucarelli. Grazie anche Alessandro Giglioli. Tu come sei su Twitter? Piovono rane, certo, ma è ovvio, ovviamente, come il blog Piovono Rane, vale a dire Alessandro Giglioli dell'Espresso. Grazie a tutti voi per essere stati qui. E che dire, noi ci fermiamo, il bar è fatto, gli scontrini sì, li abbiamo fatti, offre Nicole Minetti, ma gli scontrini sono battuti, che qua c'è Befera che ci attende fuori appena tiriamo giù la Claire. Va bene, ci ritroviamo alle 7:20 per la lettura dei quotidiani. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Non le rispondo, ho già risposto non tante rispondo, volte. Non rispondo. Alla questione delle vacanze. La tolgo dall'imbarazzo di fare la domanda di un concorrente che poi il suo editore si arrabbia con lei. Accidenti, poi mi licenzia magari. Allora niente, allora fermiamoci qui. La ringrazio. Le risparmio il licenziamento. Grazie. Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se soffa di scienza, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don guerra fai voi politicamente, io ve lo giuro sarebbe un'usanza, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà ci stanno a spassare. A proposito tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che hai visto che a te. Eccoci qua allora, cari ascoltatori, ben ritrovati. Sono le 7:19 minuti. Pigroni che vi siete svegliati solo ora, mentre noi dalle 6:35 siamo qua in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi? Beh, intanto avremo ospite alle 8:15 Enrico Mentana, il direttore del TG della 7, la 7 che è anche molto attenzionata per la possibilità di acquisto, avanzata anche da Mediaset, poi forse già tramontata questa ipotesi, ma chissà, ora si è affacciato anche Murdoch a manifestare interesse per la 7, e non solo, ma con Enrico Mentana parleremo anche dell'attualità politica e poi torneremo sulla questione della regione Lazio. Oggi avremo ospite, sarà con noi finalmente, visto che ha parlato la governatrice Renata Polverini, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese. Avremo ospite anche il direttore del Messaggero, Mario Orfeo, questo alle 8:30 per parlare di quello che è successo ieri con Renata Polverini, scatenata a dire bisogna estirpare il cancro dalla regione come io l'ho tolto dalla mia gola. Di questo parleremo con gli ospiti più avanti, e allora andiamo a leggere i giornali? Ma sì, andiamo a leggere i giornali in edicola. In questo martedì 18 settembre, tra l'altro da oggi c'è un giornale in più, vale a dire Pubblico, di Luca Telese. Luca Telese ieri era il nostro ospite alle 6:30, è uscito con il primo numero e dunque è nella nostra rassegna stampa. Intanto c'è chi sceglie l'apertura con la Fiat. Beh, intanto sicuramente Repubblica fa il colpo, nel senso che c'è un'intervista a Sergio Marchionne. La Fiat resterà in Italia, questo è il titolo della lunga intervista concessa al direttore Ezio Mauro, sicuramente la leggeremo tra poco. Il Corriere della Sera, Marchionne ora torna tra le polemiche, Marchionne torna tra le polemiche, questo è il titolo di apertura. Libero invece basta con la Fiat. Il Sole 24 Ore, l'apertura è sul Made in Italy, bene all'estero, il surplus sale a 4,5 miliardi. Sulle esportazioni dunque l'apertura. La Stampa, l'Italia sta facendo bene, Merkel sul ricorso al salvastati deciderà da sola. E poi eccolo qua, la regione Lazio, Polverini, svolta o tutti a casa, questo è il titolo di apertura del Messaggero. Il Fatto Quotidiano, Polverini di quattrini. Il Secolo XIX, partiti, il sacco delle regioni, l'unità, Polverini si veste da Batman. Beh, questo non è male come titolo, giocando anche su il soprannome della persona più sotto i riflettori, no? Franco Fiorito, detto Air Batman. Il Manifesto invece, Nichi Vendola, alla prima che mi fai non partecipa al congresso di un partito che non è il mio. Nichi Vendola pronto a farsi indietro sul tema primarie, mentre Avvenire, cristiani decisivi, questo è il titolo di apertura, la lezione del Papa. Il Giornale invece, dopo l'intervista del Cavaliere, come battere la sinistra, torna ovviamente su un'intervista al Giornale. Pubblico appunto, come detto in edicola da oggi il Quotidiano, sono 24 pagine, obtorto col, e c'è la foto di una centralinista, chi prende per il collo le centraliniste. È la storia di copertina su questo lavoro, forse indicato come il lavoro precario per eccellenza, no? Le centraliniste dei call center. E c'è ovviamente una storia su questa, pagina 2 e 3. Io però voglio partire da quello che è successo all'Università di Calabria. Sta indagando la procura. Sappiate che ci sono dei fenomeni, dei Pico della Mirandola evidentemente, degli Albert Einstein, e noi non lo sapevamo. All'Università di Calabria ci sono persone che si sono laureate dando 7 esami in un giorno, ovvero, come qualcuno ha ironizzato su Twitter, vabbè, il Trota si è laureato in un giorno praticamente in Albania, ma 7 esami in un giorno, questo è tutto vero. Lauree flash, 7 esami in un giorno, questo il Secolo XIX a pagina 7. Scoperto un sistema truffaldino all'Università di Calabria a Cosenza, annullate 72 lauree, Dario Marchetti scrive: 7 esami in un giorno e tutti superati con 30 e lode. Si può fare. Quello che sembra un nuovo spot del CEPU in realtà è una delle tante storie italiane fatte di imbrogli e sotterfugi. Questa volta lo scenario all'Università della Calabria a Cosenza, dove da anni era attivo un vero e proprio sistema di tutoraggio criminale. Per ottenere una laurea in tempi brevi col massimo dei voti bastava conoscere l'impiegato giusto, ovviamente pagare. Ed ecco che allora gli inquirenti hanno sequestrato oltre 20.000 atti che vanno dal 2004 al 2011, hanno ricostruito il sistema semplice ma efficace, si fotocopiava uno statino già utilizzato, si sostituiva il nome dello studente che aveva sostenuto realmente l'esame, la firma del professore che era all'oscuro di tutto veniva falsificata, il documento era inserito nel fascicolo personale del futuro laureando. Il rettore Giovanni Latorre ha pubblicato in una nota ha espresso piena fiducia nell'operato della magistratura e sta di fatto che su questo si concentra anche Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere dal titolo Il valore illegale delle lauree, lo studente che ha superato 7 esami lo stesso giorno con il massimo dei voti. Fa tutto un editoriale sull'importanza del merito, scrive Stella, e si chiede: è più utile dare in pagella un voto basso che segnali un problema o promuovere tutti in massa distribuendo voti altissimi perché la vita è già dura, poveri ragazzi, ed è inutile mortificarli? Sinceramente, è credibile che al liceo classico Empedocle di Agrigento siano usciti dagli esami di maturità 2011 la bellezza di 53 geni col massimo dei voti su 182 studenti? Cos'erano? Un'infornata strabiliante di Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Pico della Mirandola? O un genio ogni 3 alunni è una quota un po' troppo alta per essere plausibile? Ecco, da qui si può iniziare a spiegare, scrive Stella, il nocciolo della questione: 72 dottori falsi usciti dall'Università della Calabria di Cosenza, che nacque grazie all'entusiasmo di docenti trascinati da un trentino come Beniamino Andreatta, che avrebbe dovuto essere un campus di altissimo livello sul modello degli atenei americani. Non sono solo questi degli imbroglioni da castigare con una sentenza durissima. A partire da quello che, registrando 7 esami in un giorno e prendendo per 7 volte il massimo dei voti con la lode, dimostrava di essere certo che la sua bravata strafottente sarebbe stata inosservata. È un messaggio devastante, così scrive Gian Antonio Stella. L'articolo lo trovate in prima pagina e poi continua a pagina 25 del Corriere della Sera. Vabbè, io voglio in questo momento, prima della pubblicità, parlare di una cosa che certo molti snob diranno: ma che ancora sta storia delle tette di Kate Middleton? Ma i giornali, io leggo i giornali e la rassegna stampa dei giornali è piena di queste pagine, non c'è quotidiano che non dedichi una pagina a quello che è diventato un affare serio di Stato. La pubblicazione di Kate Middleton, la principessa che era in vacanza in Francia con William e che è stata immortalata a seno nudo, e pubblicate le foto su Closer in Francia e poi su Chi in Italia, entrambi del gruppo Mondadori, dunque della famiglia Berlusconi. E qui ecco subito Repubblica che ha attaccato, lo ha fatto, è il classico conflitto di interessi, si è voluto vendicare della regina Elisabetta di qualche sgarbo del passato. Sta di fatto che basta leggere i giornali. Repubblica, via alla guerra dei Windsor, doppia querela per il seno di Kate, e la stampa inglese attacca Berlusconi, traditore. Il giornale, i reali portano in aula rivista e paparazzo per il topless di Kate. Il Fatto Quotidiano, ve lo sareste mai aspettato dal quotidiano di Antonio Padellaro, eppure mezza pagina, a pagina 18, certo, per carità, però c'è Il mondo col fiato sospeso per le tette di Kate, questo è il titolo, con articolo anche un po' certo ironico. Il topless di Kate diviene affare di Stato, e lucubrazione sulla privacy, scontro diplomatico, la duchessa di Cambridge si è tolta al reggiseno per prendere il sole in Provenza, roba forte. Non essendoci notizia se ne parla tantissimo e chi non partecipa al coro va da sé, è snob. E sul Quotidiano Nazionale, a pagina 12, una pagina, Kate, missione nel Pacifico del Sud. Ecco, questa è la parte più straordinaria di tutta questa storia. Allora, i reali sono, si possono definire così, sì, il principe, la principessa, i reali, no? Non vorrei fare sgarbi alla corte britannica. E, sono andati nel Pacifico, un viaggio programmato. forse anche per fuggire dall'altra parte del mondo, nel Pacifico del Sud, sono stati accolti nelle isole Salomone e sono stati accolti da un gruppo di donne locali che si sono presentate in topless. Ma perché tradizione lì, mica la volevano prendere in giro. Ovviamente c'è questa immagine, queste foto di Kate che si copre la faccia, non si sa se scoppia a ridere per l'imbarazzo, non si sa se scoppia a ridere per la situazione, cioè lei che è fuggita e che dall'altra parte del mondo per fuggire dalle sue foto in topless, come viene accolta da donne locali indigene delle isole Salomone che si presentano tette al vento. Fuori di seno, così anche il quotidiano Libero, che dedica due pagine a questa vicenda, ma anche il Messaggero: topless di Kate, oggi il verdetto, e William tuona tutti dietro le sbarre, vuole mettere in galera. Secondo anche Libero, i reali denunciano Mondadori, vogliono arrestare i direttori. Ve lo vedete Alfonso Signorini, di chi è arrestato per aver mostrato le tette di Kate Middleton in prima pagina del settimanale Chi. E Alfonso Signorini fa un'intervista, risponde per le rime a Repubblica: intanto sono foto da oratorio, ho fatto un grosso scoop e ne sono contento, ma mi sono fatto una sonora risata riguardo a Repubblica che scrive di un presunto sgarbo così di Berlusconi a Buckingham Palace. È fanta editoria, constato con piacere che quello di Repubblica è un caso isolato all'interno della stampa di sinistra, neppure l'Unità o il Fatto hanno evocato questa cosa. Merlo, Francesco Merlo, mi chiama la geografo di Nicole Minetti, curioso che salga in cattedra chi per un anno come lui è stato la geografo di Maristel Polanco, una delle olgettine. E poi non ci sono tette di serie A e di serie B, la tetta è democratica. Ecco, su questa frase, la tetta è democratica, di Alfonso Signorini, direttore di Chi. Allora, con il continuare la lettura dei giornali, mi vorrei concentrare sulla questione Fiat, perché ieri, tra l'altro, il presidente di Confindustria Squinzi, trovate a pagina 3 sul Sole 24 Ore, era Casalecchio di Reno, ha detto: non conosco il problema nel dettaglio, ma un grande paese industriale come l'Italia non può non avere un'industria automobilistica forte. Non dimentichiamo che dietro l'industria automobilistica c'è anche un indotto di tante imprese che aiutano il settore a fare innovazione e essere competitivo. Per questo il titolo a pagina 3 del Sole è: Italia mai senza industria dell'auto. C'è stato invece ieri un durissimo attacco di Diego Della Valle, il patron del gruppo Tods, che già aveva attaccato Marchionne sul suo possibile disimpegno dal piano Fabbrica Italia e quindi dal paese. E ieri all'infedele Liga Lerner ha rincarato la dose. Della Valle, dai leader Fiat poco rispetto per il paese, e quello che ha detto è questo: ha definito i vertici, dopo averli definiti inadeguati, furbetti, cosmopoliti, ieri sera con un concentrato di attacchi contro la famiglia Agnelli, che ha ricevuto un grandissimo aiuto negli ultimi decenni dal governo, dai cittadini, dai lavoratori che ora rischiano il posto. E dunque per questo la Fiat è un'azienda privata, ma che si può definire anche pubblica. Ha parlato Della Valle di un piano strombazzato ai quattro venti che non può più essere attuato dalla sera alla mattina, ora scappano alla chetichella. E poi ha detto: a questo punto o la famiglia Agnelli fa tutto il possibile per la gente che lavora nelle loro aziende, mettendo le mani in tasca, investendo, oppure torni a fare quello che ha saputo fare meglio, ottime sciate, ottime veleggiate, torni a giocare a golf e lasci i problemi dell'Italia alle persone serie. Ancora nel mirino soprattutto John Elkann, lo conosco fin da bambino, un ragazzo giovanissimo, ricopre un ruolo per il quale non ha l'esperienza, lo porta a fare molti errori, ma purtroppo in quella famiglia bisogna parlare con lui. Insomma, attacchi durissimi di Diego Della Valle. Oggi Marchionne, che rientra in Italia, parla attraverso un'intervista, una lunga intervista, due pagine, un'intervista molto interessante, imprescindibile per chi vuole occuparsi del tema Fiat, rilasciata a Repubblica al direttore Ezio Mauro. Un'intervista che inizia a pagina 1 e poi continua a pagina 2 e 3. Il titolo è: la Fiat resterà in Italia, parla Marchionne, risponderò al governo ma ognuno faccia la sua parte. Vediamo di leggere alcuni stralci di questa intervista. Intanto Marchionne dice: sta succedendo esattamente quello che avevo detto alla Consob un anno fa, ho dovuto ripeterlo perché attorno a Fabbrica Italia si stava montando una panna del tutto impropria utilizzando il nome della Fiat per ragioni solo politiche. Insomma, qual è la verità? Il blocco degli investimenti, tutta colpa della crisi, chiede il direttore di Repubblica. Questa è semplicemente una sciocchezza. Abbiamo appena investito 1 miliardo per la Maserati in Bertone e altri 800 milioni per Pomigliano. Le sembra poco? Ma la mia verità è questa: la Fiat sta accumulando perdite per 700 milioni in Europa, sta reggendo a questa perdita coi successi all'estero, Stati Uniti e paesi emergenti. Mi risponda lei, dice Marchionne a Ezio Mauro, se la sentirebbe di investire in un mercato tramortito dalla crisi, se avesse la certezza non soltanto di non guadagnare un euro, ma addirittura di non recuperare i soldi investiti? Questa sarebbe strategia manageriale responsabile nei confronti dell'azienda, dei lavoratori, degli azionisti e del paese? Non scherziamo. Perché non guardiamo le cifre, che parlano da sole, molto meglio della propaganda? Lei le conosce? In Italia l'automobile è precipitata in un buco di mercato senza precedenti. Abbiamo perso di colpo 40 anni e si capisce se uno è capace di guardarsi attorno. Il paese soltanto un anno fa era fallito, lo avevamo perduto. E solo l'intervento di un attore credibile ha saputo riprendere l'Italia dal baratro in cui era finita e risollevarla. Ce lo siamo dimenticato e qualcuno vorrebbe che la Fiat, in mezzo a questa tempesta, si comportasse tranquillamente come prima, quando c'era il sole? O è un'imbecillità pensare questo, o è una prepotenza fuori dalla logica? Insomma, un Marchionne d'attacco in questa intervista a Repubblica. E risponde così a Diego Della Valle: tutti parlano a 100 all'ora perché la Fiat è un bersaglio grosso. Ci sarebbe da domandarsi chi ha dato la cattedra a molti maestri d'automobile improvvisata, ma significherebbe starnazzare nel pollaio più provinciale che c'è davanti a una crisi che ci sfida tutti a livello mondiale. Finché attaccano me, comunque, nessun problema, ma lasciano stare la Fiat per rispetto e per favore. Sul piano Fabbrica Italia, i 20 miliardi che non viene mantenuto, e quindi Ezio Mauro dice non si sente in colpa, quell'impegno, risponde Marchionne, era basato su 100 cose, la metà non ci sono più per effetto della crisi, lo capirebbe chiunque. Io allora puntavo su un mercato che reggeva ed è crollato, su una riforma del mercato del lavoro, e ho più di 70 cause aperte dalla FIOM. Soprattutto da allora a oggi il mercato europeo ha perso 2 milioni di macchine. Insomma, quel piano non c'è più, non ci sono più le condizioni per Marchionne. Poi alla domanda, intanto come vede l'anno prossimo? Molto male. D'altra parte la gente non ha più potere d'acquisto, magari ha perso il lavoro, i risparmi se ne sono andati, non ha prospettive per il futuro. Ci rendiamo dunque conto, l'auto nuova è proprio l'ultima cosa, non ci pensano nemmeno, si tengono la vecchia ben stretta. E sugli incentivi sono stati una droga, non c'è dubbio. E infine la domanda chiave è l'Italia. Insomma, l'Italia cosa fa? Se ne va? Non può ignorarla. Risponde così Marchionne: lei non può pensare alla Fiat come a un'azienda soltanto italiana, sarebbe in ritardo di 10 anni. La Fiat non è più un'azienda solo italiana, opera nel mondo, con le regole del mondo. Per essere chiari, se io sviluppo un'auto in America e poi la vendo in Europa guadagnandoci, per me è uguale e deve essere uguale. E qui lei dovrebbe aver già capito la mia strategia, gliela dico in una formula: cerco di assecondare la ripresa del mercato americano sfruttandola al massimo per acquisire quella sicurezza finanziaria che mi consenta di proteggere la presenza Fiat in Italia e in Europa in questo momento drammatico. Fare diversamente sarebbe una follia. Insomma, tradotto nel titolo è: da noi l'auto è in agonia, ma manterrò Fiat in Italia coi guadagni fatti all'estero. Questa è la posizione di Marchionne. Comunque un'intervista molto intensa, molto dura, importante, cruciale in questo momento. C'è da dire che sull'Unità invece si intervista Susanna Camusso, leader della CGIL, che dice: il lavoro è la priorità assoluta, l'Italia ha sempre dato per scontato che le auto le produce la Fiat o nessuno, invece è da affermare il concetto che la produzione dei mezzi di trasporto nel paese non può essere il risultato delle scelte di una singola azienda. Se i piani di Fiat sono cambiati, ci si deve attrezzare per attirare un altro produttore. Comunque non ci vengano a dire che Fabbrica Italia svanisce per colpa della crisi, perché quel piano è stato annunciato nel 2010 a crisi scoppiata e consolidata. Questa in qualche modo è il sunto della risposta che trovate della leader CGIL Susanna Camusso, intervistata da Laura Matteucci sull'Unità. Ma certo, su Fiat il tema è molto molto caldo, e trovate anche sul Fatto Quotidiano, per esempio, un viaggio a Kragujevac, cioè in Serbia, dove ci sono, scrive il Fatto, salari da fame, ecco la Fiat che piace a Marchionne, attacca duramente il Fatto Quotidiano, come dire, c'è anche una vignetta, prendi la Fiat e scappa, il tema è questo. La Fiat rimarrà in Italia oppure no? Marchionne dice già, ragionare così è un ragionamento da 10 anni fa. L'altro tema del giorno sicuramente la politica, noi ne parleremo alle 8.30. Ieri non so se avete visto Renata Polverini, governatrice del Lazio, attaccare duramente, a dire bisogna estirpare i cancri che ci sono in questa regione come io li ho tolti dalla gola, è stata operata di recente quest'estate. Siamo come la Concordia, ci siamo sfracellati, ma fortunatamente per ora non ci sono dei morti. Insomma, grande retorica anche per annunciare un piano di tagli. Polverini, il caso Lazio, tagli o tutti a casa, un piano di tagli che nei prossimi giorni dovrebbero comprendere questo: dimezzamento delle commissioni, abolizione delle commissioni speciali, dimezzamento dei 4.180 euro di rimborso a consigliere, azzeramento dei fondi a gruppi, revoca delle auto blu, trasparenza delle delibere, scioglimento dei monogruppi, i gruppi formati da una sola persona che prendono l'indennità di gruppo. Questa è una roba che sappiamo incredibile, i monogruppi, il gruppo formato da una sola persona. Certo, trasparenza delle delibere, dovrebbero essere già trasparenti. Comunque, tutto questo annunciato da Renata Polverini basterà con questi anche toni da tregenda? Chi lo sa, intanto continua l'inchiesta, ora si va a sfrucugliare sui conti di Francone Fiorito, detto Air Batman, colui che è accusato di peculato, avrebbe intascato vari soldi del finanziamento pubblico ai partiti per sé. In un conto di Fiorito spunta per esempio la firma di una donna, e poi c'è questa villa al Circeo che si è comprato e che Repubblica scrive con quali soldi. Gli sviluppi dell'inchiesta portano a un conto di Fiorito, scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera pagina 8, su cui c'è la firma di una donna, forse l'ex fidanzata Samantha Reali, un deposito a doppia firma che sembra essere la chiave per scardinare i misteri che ancora avvolgono la destinazione finale dei soldi sottratti da Fiorito al partito. Ecco, dove sono finiti i soldi che, di cui si sarebbe appropriato Fiorito? Beh, Carlo Bonini su Repubblica, pagina 11, racconta la storia di una villa comprata da Fiorito al Circeo con 800.000 euro in contanti. Questo almeno è la storia raccontata dalla Repubblica. C'è un angolo di paradiso dove quel diavolo di Fiorito, Air Batman, aveva fatto il nido. Perché così raccontano ora, col timore che si deve a un boss, in quel di Anagni dove il miracolo ciociaro del nostro è cominciato. È una villa di 8 vani nel cuore del parco del Circeo, aggrappata al promontorio, lungo la strada del sole, la sterrata che lo taglia a metà all'altezza del faro. E se è vero che non è una novità la passione dei tesorieri di partito per il mattone, come insegna il caso Lusi, se è vero che di case il nostro ne ha collezionate come al Monopoli, all'Agenzia del Territorio risultano intestati a lui 8 fabbricati e 5 terreni ad Adagni, e un fabbricato e un terreno a Piglio. Questa del Circeo però è una casa diversa dalle altre, intanto non fosse altro per come è stata acquistata e quando è stata acquistata. E qui racconta la storia Carlo Bonini di una casa comprata appunto per 800.000 euro, la proprietaria chiedeva 1 milione di euro, e sappiamo che è stata comprata proprio nei momenti in cui c'è questo giro di soldi di 109 bonifici personali che dai conti del partito vengono girati soldi sui conti personali di Franco Fiorito. Questa è l'accusa. Allora l'accusa è: se è comprato la villa, per farla molto in maniera molto brutale. Tra l'altro racconta Carlo Bonini che da 2 anni Fiorito non dichiara il patrimonio e che già nel 2009 l'ex capogruppo, a fronte di spese elettorali irrisorie, aveva 5 auto di lusso. Insomma, come la vogliate prendere, è una storia solita di che viene tradotta così, giustamente, dalle persone comuni. Noi tiriamo a campare con difficoltà alla fine del mese, e quelli là sarebbero quelli della politica, si fanno le ville, ostriche, champagne, cene, ristoranti e magari anche delle mignotte. Questo molto brutalmente è quello che la gente percepisce o forse anche così. C'è anche un giallo legato ai radicali, perché il Fatto Quotidiano e il Messaggero puntano l'accento, puntano lo sguardo su 160.000 euro sospetti che dal PDL Lazio sarebbero finiti a finanziare la società Lallaria SRL, un'azienda il cui responsabile è stato il candidato dei radicali a Fara Sabina, si tratta di Paolo Campanelli. Il sospetto è che il PDL abbia dato quei soldi per finanziare un candidato ostile al PD. Insomma, c'è anche questo giallo. 160.000 euro sospetti del PDL per la società di un radicale, così titola Il Fatto. Oppure anche Il Messaggero, fatture per la campagna elettorale al candidato sindaco di Fara Sabina, 160.000 euro per ostacolare il PD. Comunque avremo anche il direttore del Messaggero Mario Orfeo alle 8.30, parleremo di questa vicenda. Io vi segnalo ancora che per la politica è tutto un dibattito riguardante il centrosinistra su Nichi Vendola, che minaccia mi ritiro dalle primarie, e il quotidiano Pubblico, che da oggi, ripeto, è in edicola, diretto da Luca Terese, con un'intervista, fa un colloquio di Tommaso Labate proprio con Pierluigi Bersani sul welfare pronto a cambiare la riforma dei tecnici. È un colloquio a tutto campo, dice Bersani, riguardo alle primarie: è un diritto dovere di chiunque si presenti, corra per la premiership, quello di essere legittimato dalla maggioranza più uno di chi andrà a votare alle primarie. Io la penso così, e per questo penso a uno sbarramento del 50% e a un doppio turno. Bersani che poi parla anche di Berlusconi. Se qualcuno pensa che io mi metta a fare una maggioranza insieme a un signore che si chiama Silvio Berlusconi, si sbaglia di grosso. Se la facciano altri una maggioranza con Berlusconi, perché di fronte a questo scenario io mi faccio da parte e mi metto a riposo piuttosto. Lui è lo stesso uomo di sempre. Bersani parla di Berlusconi. Mi creda, al di là del fatto che decida o meno di scendere in campo, il primo pensiero che ha in mente è consolidare la sua posizione economica. Pensi per esempio alla 7, nemmeno uno come lui può pensare di acquisirla direttamente facendola inglobare da Mediaset. Secondo me, purtroppo, ha già in mente qualcos'altro. Però su questo qualcos'altro Bersani poi non svela di cosa si tratti secondo lui. Questo per quel che riguarda la politica. Vabbè, sulla 7 tra l'altro ci sono anche altri articoli, ma ne parleremo alle 8.15, avremo il direttore del TG della 7 Enrico Mentana, nostro ospite. Gli articoli sono, giusto per chiudere, che ora c'è l'interesse anche di Murdoch, così titola Repubblica, la 7 a pagina 6. Ora spunta anche Murdoch, Mediaset nell'angolo, ci prova anche Sky. E due pagine in realtà di Repubblica su questo, con Berlusconi pronto a ritirarsi nella corsa verso la 7. Eccoci rientrati in onda, ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:18. Vogliamo parlare un po' dell'attualità con il direttore del TG della 7, Enrico Mentana. Buongiorno direttore. Buongiorno, ben ritrovato. Eccoci qua. Allora, senta, parliamo un po' di La 7 proprio, perché siete davvero su tutti i giornali, anche sull'acquisto. Intanto pare sfumata la vicenda Mediaset Berlusconi, tira un sospiro di sollievo? No, non tiro nessun sospiro di sollievo. Io ho detto subito, sin dall'inizio, che il mercato è il mercato. E se una emittente è in vendita, si faccia avanti chi vuole, e poi se hai i requisiti e la compra non è che bisogna leccarsi le ferite o dire no, passeranno, cose di questo genere. Io ho spiegato che nel caso di Mediaset me ne andrei per un motivo di storia personale, di coerenza personale, ma non è che sto a fare l'esame del DNA agli eventuali compratori. Questo per chiarezza. Perché Mediaset è un player del mercato, non è Hitler. No, questo certamente. C'è da dire che oggi Bersani, in un colloquio con Pubblico, il nuovo giornale di Luca Terese, Bersani dice: io sulla 7 ho un sospetto, secondo me Berlusconi non può certamente pensare di comprarla, ho un sospetto, però non si capisce questo sospetto, la lascia lì questa frase. Qualcuno può adombrare il sospetto che potesse comprarla per chiuderla o comprarla per depotenziarla, addirittura se la vede un Berlusconi che faccia una cosa del genere. No, però Bersani è uno che sa bene che cos'è la 7, perché quando 11 anni fa mi chiamarono per la 7, a preannunciarmelo fu Bersani, quindi conosce questi argomenti. chi voleva preannunciare Fu Bersani? Cioè, no, questo è, questo... Perché Bersani era, come si sa, un esponente politico che aveva seguito con molta attenzione la famosa scalata a Telecom dei Capitani Coraggiosi. Quindi conosce l'ambiente, gli argomenti, le dinamiche. Ma questo sospetto che lascia lì coi puntini, quale potrebbe essere? Perché non... chiederò a lui, certo, o a Tommaso Labate che l'ha intervistato. È strano però, perché è un sospetto, ma poi non approfondisce la questione. Senta, invece si profila all'orizzonte la possibilità di Murdoch. Murdoch, per carità, è il mercato tutto, però come andrebbe bene? Facciamogli un esame. Ecco. Come ho già detto... vanno sempre bene tutti gli operatori del settore che hanno dimostrato di saperci fare, perché dobbiamo prescindere poi dalle storie personali e dire cosa è bene per la Sette. È ovvio che tutti coloro, e ce ne sono tanti a quello che leggo, che stanno manifestando il loro interesse, sono dei grandi player internazionali, RTL, Discovery Channel e anche evidentemente il gruppo che in Italia è Sky, cioè Murdoch. Non ci sono controindicazioni per nessuno di tutti questi, perché ovviamente stiamo parlando di gente che sa come si fa la televisione, che ha robuste dotazioni di diritti, library, che potrebbe sinergizzare molto bene. Per la verità, lei tra l'altro un anno fa aveva detto la stessa cosa di De Benedetti, la cosa di Berlusconi, cioè se arriva De Benedetti vado via, se adesso arriva Berlusconi vado via. Posso permettere, io non avevo mai detto se arriva De Benedetti vado via, avevo detto che preferivo, e lo ripeto ancora oggi, preferisco in generale avere un editore che non riverbera anche involontariamente le sue tendenze politiche sul prodotto, no? Questo è un discorso abbastanza chiaro, questo vale per Mediaset, vale per il gruppo di Repubblica, ma poi lo dico con molta chiarezza, non è che me ne andrei se ci comprasse il gruppo Espresso, perché non ci sono controindicazioni, a differenza del gruppo di Berlusconi, il gruppo di, non ho mai lavorato con il gruppo Espresso Repubblica, non mi hanno mai cacciato, non si è mai presentato in politica, non ha un partito, anche se molti parlano del partito di Repubblica, e soprattutto De Benedetti non è candidato premier. Quindi un qualcosa di personale, ma lei l'ha già raccontato, la sua vicenda personale. No, come finì la sua storia con Canale 5 è un qualcosa che sicuramente lei non può fare a meno di non ricordare, ecco. No, ma certo, ma voglio dire, il fatto di essere stato licenziato in tronco in una notte e di essere stato riassunto per decreto di un giudice, e subito dopo l'azienda ovviamente ha contrattato come unica possibilità l'uscita coatta, sia pure ovviamente remunerata, cioè è un elemento di chiusura definitiva dei rapporti. Non ero precisamente un usciere, che rispetto peraltro come professione, ero il direttore editoriale di Mediaset e sono stato messo alla porta, quindi questo io ce l'ho presente, poi non servo rancore, però la coerenza ci vuole. C'è sempre però, siamo sempre lì quando si parla di informazione, TV inevitabilmente bisogna parlare di politica, editori puri io non ne vedo all'orizzonte, c'è sempre qualcuno che porta avanti. Chiedo scusa Milan, Murdoch, tutto quello che gli possiamo dire, con tutto quello che possiamo dire, è un editore puro. Lui sì, ma Murdoch è l'unico di questi, però Berlusconi, De Benedetti, eccetera, cioè in Italia si gira sempre attorno a quello, poi TV, informazione e politica, e conflitto di interessi. Però anche qui, può piacere o non piacere, ma l'interesse prevalente, industriale, di De Benedetti è l'editoria, detto francamente. Poi noi siamo bravissimi in Italia a colorare tutto. Però noi, se giochiamo con le parole, poi non ci intendiamo. In Italia non ci sono editori puri e la storia di De Benedetti viene da altri settori a cui si è aggiunta l'editoria, ma in questo momento, per dire il vero, fa solo l'editore, no? Anche se la CIR poi, in mano al figlio, ha altri interessi nell'energia. Un po' di politica attraverso Repubblica la si fa, se non altro i rapporti con Berlusconi dopo la famosa sentenza Mondadori non sono idilliaci, ecco, i rapporti ma non c'è assolutamente dubbio, però allora qui ci dobbiamo spiegare, non è che fare editoria comporta l'essere completamente adamantini e neutrali rispetto alla politica, no? Ci sono fior di editori puri in giro per il mondo che poi piazzano le loro corazzate a favore di uno o l'altro candidato alle elezioni, no? Ah, senza dubbio è così. Magari. Senza dubbio è così. Senta, a proposito, ha capito cosa vuol fare Berlusconi da grande, lei o no? Io, Milan, devo dire la verità, Berlusconi è sicuramente quel tipo di politico, come ne abbiamo visti tanti in giro per il mondo, che ha avuto una grandissima stagione e non vuole chiuderla con l'ultimo passaggio, che è stato quello negativo, come sempre quello negativo, perché uno si ritira spontaneamente oppure in genere finisce con una sconfitta elettorale. E a lui è capitato anche qualcosa di peggio, ancora stamattina leggevo quella fortissima intervista di Marchionne al direttore di Repubblica, in cui diceva che l'Italia un anno fa era fallita, è arrivato il salvataggio, sì. Il paese un anno fa era fallito, lo avevamo perduto, solo l'intervento di un attore credibile ha saputo riprendere l'Italia dal baratro in cui era finita. Quindi se si associa questa calata nel baratro al volto di Berlusconi, si capisce che l'interessato non voglia che quella sia l'ultima pagina della sua carriera pubblica. È evidente che cerca l'ultimo urrà, come dicono, no? E cercherà probabilmente la candidatura a premier, se, perché l'uomo si fida dei sondaggi, se i sondaggi gli daranno almeno uno spiraglio. In questo momento non glielo danno. Ecco, appunto, chiudiamo su questo, perché i sondaggi, voi tutti i lunedì fate il sondaggio da tempo, cercate di seguire la situazione, di come sono i gradimenti degli italiani, dei partiti politici rispetto agli italiani, ma vabbè, dei partiti politici immagino quasi a zero, visto anche l'ultima vicenda della Regione Lazio, ma i sondaggi sconsiglierebbero a Berlusconi di scendere in campo per l'ennesima volta? I sondaggi dicono che Berlusconi non ha molte chance, anzi ne ha pochissime, di tornare a Palazzo Chigi. Però ci sono anche altri interessi che praticamente militano a favore del fatto che comunque guidi la carica del PDL, come si chiamerà, perché senza Berlusconi il PDL rischia di andare a una cifra. Questa è la questione di fondo. Non si è creata un'altra leadership credibile e proponibile sul mercato elettorale nel raffronto e nella sfida con gli altri. Per dire zero, in questo momento esiste soltanto una figura letteralmente vincente, e che è proprio quella di colui che non si presenterà. Se fossi in tutti gli altri, comunque avrei forti remore, perché certo Bersani è l'unico che ha un partito dietro le spalle molto forte, ma a parte l'insidia delle primarie, si vede che senza la certezza di una legge elettorale premiante nessuno è sicuro di entrare nella cabina elettorale e di uscirne da premier. Allora, grazie Enrico Mentana. Staremo a vedere intanto anche come evolverà la situazione di La 7. Grazie per essere stato con noi. Il direttore del TG della 7, Enrico Mentana. Noi, che dire, ci fermiamo 5 minuti e poi ritorniamo, come abbiamo fatto ieri, sulla questione della Regione Lazio. Ieri la governatrice Renata Polverini ha tuonato: bisogna estirpare i tumori di questa regione, come io li ho tolti dalla gola. Ha fatto riferimento anche con toni da tragenda alla sua vicenda di salute personale di quest'estate. Ha detto anche: ci stiamo sfracellando come, anzi ci siamo sfracellati come la Costa Concordia. E poi adesso che succede? Intanto non si è dimessa come qualcuno aveva ipotizzato. Ha promesso dei tagli. Va tutto bene in questa vicenda che la gente comune riassume così, perché da qui partiamo. Noi arriviamo alla fine del mese con fatica e difficoltà, e certi politici se la godono coi nostri soldi a ostriche, champagne, macchine pagate e talvolta anche festini con mignotte. Allora, la Regione Lazio, 800240024 è il numero se volete intervenire in diretta, gli sms al 349-238-6666. Cosa è successo ieri? La furia, l'ira di Renata Polverini, la governatrice, che non si è dimessa come qualcuno aveva ipotizzato, ma in un consiglio regionale straordinario ha parlato delle presunte ruberie, al centro delle quali ci sarebbe l'ex capogruppo del PDL Franco Fiorito, accusato di peculato, essersi appropriato di soldi non suoi. Oggi Repubblica scrive: c'è anche una villa al Circeo comprata con 800.000 euro in contanti, probabilmente i soldi provengono da lì. Insomma, una situazione davvero da toni anche molto molto duri. Io voglio salutare, per questo ne vogliamo parlare, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese. Buongiorno presidente, ben ritrovato. Buongiorno Milan, buongiorno a tutti. Saluto anche il direttore del Messaggero, Mario Orfeo. Direttore, buongiorno, eccoci qua. Direttore? Adesso recuperiamo la linea, l'abbiamo chiamato, è caduta. Comunque oggi Messaggero che titola Polverini, svolta o tutti a casa. Vogliamo intanto usare, ascoltare i toni anche da tregenda usati dalla governatrice Polverini in alcuni passaggi, due i più forti. Oggi o siamo convinti che se superiamo questo scoglio difficile, siamo come la Concordia, ci siamo sfracellati, per fortuna ancora non abbiamo morti. O siamo nelle condizioni di dire che invertiamo la marcia, oppure non vale la pena di andare avanti. Allora, come la Concordia. E poi la frase ancora più dura, che anche rievoca il suo problema di salute personale avuto quest'estate. E sentite cosa ha detto la governatrice Polverini. E allora i tumori che stanno qua dentro, come nella mia gola, vanno estirpati. Saluto allora il direttore del Messaggero, Mario Orfeo. Direttore, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Eccoci, c'è con noi anche il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese. Presidente, io partirei da lei. Allora, adesso è stata annunciata una serie di tagli, tra questi anche le auto blu. Per esempio, a me ha colpito l'intervista che ho letto sulla stampa uscita, in cui lei dice di avere due auto blu a disposizione. È così? Cioè, lo conferma? Guardi Milan, io non ho mai detto questo, anche se poi alla fine deve passare questo messaggio e diciamo che le cose devono andare così. E io ho semplicemente detto che c'è un regolamento che disciplina l'assegnazione e l'uso delle autovetture. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio ha in dotazione una macchina, quindi una Alfa 159. E com'è nata questa storia delle due questo macchine? Questo è perché sono stato tirato in ballo evidentemente da altri, però è facilmente riscontrabile quello che sto dicendo. Ma quindi lei ne ha una o due? Non ho capito. Una vettura. Perché c'era tutto l'intervista. Se dobbiamo far passare un altro messaggio, io ci sto e non ci sono problemi. Lei ha una. Anche perché si è parlato ieri sera anche il direttore Orfeo, che ho avuto modo di ascoltare e di salutare. Direttore, buongiorno. Delle spese di rappresentanza del presidente del Consiglio, cioè voglio dire di 1,5 milioni di euro. Cioè, io invito tutti a leggere il bilancio. Io ho trovato un bilancio del 2010 già approvato, tra l'altro, quindi ho approvato il primo bilancio del 2011 e il secondo bilancio del 2012. Quelle somme sono state ridotte nel 2011 a 750 e nel 2012 a 250, però l'obiettivo è far passare, diciamo, questa leggenda metropolitana, che ripeto, posso anche starci perché è il gioco della politica. Però mi sembra anche corretto, ecco, dire le cose come stanno. Però leggenda da metropolitana, qua, direttore Orfeo, oggi sulla prima pagina del Messaggero c'è questo, oltre ai vari approfondimenti e articoli, c'è questo diciamo editoriale o comunque commento molto breve e secco dal titolo "Ora parlino i fatti". Ecco, va tutto bene quello che ha detto ieri Renata Polverini, taglieremo, faremo, ci diamo un tot di giorni e togliamo 20 milioni di dotazione, oppure adesso la gente è lì a dire adesso fateci vedere davvero cosa fate. Guarda, io ho molto apprezzato il coraggio, diciamo, perché è chiaro che la Polverini ha fatto un'iniziativa politica anche coraggiosa con il discorso di ieri in Consiglio regionale, forzando anche un po', diciamo, quello che è il regolamento. Lei è il Presidente della Regione, l'Aula è sovrana, lei ha usato anche espressioni molto forti, molto da ultimatum, quindi però devo dire anche a lei va fatta una piccola, dicendo piccolo uso un eufemismo, un piccolo rilievo, perché sono 2 anni e mezzo che ormai questa giunta e questa consigliatura va avanti e devo dire ci hanno messo un po' di tempo per rendersi conto di a quanto ammontavano le spese del Consiglio regionale e dei consiglieri regionali e del fatto che nessuno controllasse queste spese, che non ci fosse una rendicontazione di queste spese, tanto che appunto Fiorito poteva spostare tranquillamente i soldi del partito, soldi pubblici, su conti personali in Spagna o da qualche altra parte del mondo. Adesso mi dispiace che il Presidente del Consiglio abruzzese si risenta per quello che io ho detto. Io ho letto peraltro un documento che fornito dalla Presidenza della Regione, quindi diciamo un documento pubblico. Se lui nel frattempo ha tagliato queste spese, bene ha fatto. Mi pare che ancora le cifre che anche lui stesso dà siano molto molto alte. Anche perché, ripeto, come ho detto ieri sera Porta a Porta, un consigliere regionale guadagna in media tra i 13.000 e i 14.000 euro al mese e ha a disposizione 211.000 euro all'anno, quindi altri 17.000 euro al mese per attività politica, ripeto, senza l'obbligo di rendicontazione. E questo è qui che nasce il problema. Infatti, anche quando la Finanza è andata a cercare come fossero stati spesi questi soldi, non ha trovato uno straccio di ricevuto, uno straccio di documentazione, e questo mi pare, diciamo, grave in assoluto, poi ancora più grave in un tempo di crisi come questo. No, ma infatti, presidente abruzzese, quello che ha colpito, sa come la percepisce l'italiano medio che in questo momento ci sta ascoltando, va a lavorare questa vicenda? Io mi alzo, vado a lavorare e arrivo alla fine del mese magari a fatica, ho il mutuo, eccetera. Mentre alcuni politici, in questo caso si parla della Regione Lazio, fanno i festini a ostriche e champagne, si comprano alcuni, per carità, le ville, le case, le macchine, anche se non ne hanno bisogno, coi soldi nostri. E questo è una ricostruzione esagerata abruzzese. Guardi, sono d'accordo, anche perché credo che in questo momento difficile, in questo momento di grande difficoltà che il nostro paese sta vivendo, è giusto dare un segnale di grande sobrietà, ma soprattutto di grande attenzione per i problemi del territorio. Ecco, vorrei anche ricordare che non tutti hanno sbagliato, anche se poi alla fine dobbiamo pagare tutti. Ci sono anche persone, consiglieri regionali, e quindi lo voglio dire con forza, che hanno dimostrato, come ieri, di voler continuare a rappresentare con serietà i cittadini del Lazio nel rispetto del mandato da essi ricevuto. Quindi ho apprezzato anche il coraggio, la forza, come dice il direttore Orfeo, della nostra presidente, che è vero che da un lato ha in qualche modo forzato anche il regolamento, ma in questo momento straordinario serviva un atteggiamento forte, anche perché per poter modificare una serie di leggi e di lo statuto abbiamo bisogno ovviamente del consenso dell'Aula. Senta, le chiedo questo, perché però non c'è questa rendicontazione dei fondi ai gruppi? Non c'è bisogno di spiegare come uno spende soldi nostri? La Commissione Bilancio stabilisce le somme, quindi attraverso un accordo politico, dopodiché il presidente assegna le somme al gruppo. Il gruppo è autonomo. Le sto spiegando come funziona. Sì. Poi se dobbiamo contestare. Vabbè, è autonomo. Cioè, dica. Il gruppo è autonomo, quindi gestisce i fondi e a fine anno ha il dovere di rendicontare attraverso una relazione l'impiego dei fondi. Ma scusi, se fosse così che uno deve rendicontare, non verrebbero fuori ostriche, champagne e queste cose qui, se uno dovesse rendicontare, direttore Orfeo, è così? Cioè, perché non so se abruzzese ci dice che in realtà rendicontano alla fine dell'anno, ma come le dico, persino la Finanza, quando è andata negli uffici di Fiorito e del Partito del Popolo delle Libertà a cercare le pezze d'appoggio di queste spese, non ha trovato nulla. Quindi voglio dire, è una rendicontazione che non c'è, e d'altra parte, come abbiamo già purtroppo amaramente scoperto nel caso di Lusi, il tesoriere della Margherita, quindi diciamo niente di nuovo sotto il sole, solo che diciamo le cose stanno diventando sempre più inaccettabili. E voglio aggiungere un piccolo elemento, così approfittiamo della presenza di abruzzese e sentire la sua risposta. Sempre leggendo documenti della Presidenza della Regione, io ho scoperto che nel 2011 e nel 2012 il Consiglio regionale della Lazio ha compiuto 25 atti, quindi con gli stipendi e i benefit e tutto il resto, che diciamo le cifre che ho detto prima, in un anno il Consiglio regionale del Lazio ha prodotto 25 atti. Mm. Mi sembra un'altra sproporzione, diciamo, abbastanza. Ma lavorate poco, presidente drammatica. Abruzzese, per usare un eufemismo. Risponda a questo dato del direttore Orfeo. Guardi, non sono d'accordo, perché non è giusto trasmettere questo messaggio, è un messaggio sbagliato, perché l'ufficio di presidenza non è che ha il compito di erogare degli atti, ma il compito di regolamentare alcuni lavori interni dell'ufficio di presidenza, quindi il resto è l'assemblea, tutto il resto si discute in assemblea, tant'è che l'assemblea ha approvato, diciamo, durante la mia presidenza 25 leggi nel 2011 e 15 leggi fino ad oggi, quindi stiamo lavorando questi qua appunto delega. Però dice non è che si misura così il ruolo della presidenza del Consiglio regionale. Ma assolutissimamente no, non è un problema dell'ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza quindi ha il compito di gestire l'organizzazione interna del Consiglio, che è minimale rispetto ovviamente ad una relazione esterna, quindi non ci sono delibere che influiscono sull'azione strutturale del nostro sistema. Allora, la situazione della Regione Lazio, siamo col direttore del Messaggero Mario Orfeo e con il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mario Abruzzese. Presidente, prima delle spese le chiedo questo, secondo i rumors la Polverini avrebbe chiesto anche la sua di testa, la sua di presidente del Consiglio regionale, lei non ha mai pensato o sentito il dovere di dimettersi per questo scandalo? Ma guardi, io non ho pensato di dimettermi, anche perché io non rientro in questo scandalo, quindi tanto. Beh, Fiorito ha fatto il suo in questo controdossier, Fiorito avrebbe tirato in ballo anche lei, dicendo che anche lei avrebbe avuto un'auto, credo. Beh, insomma, avere un'auto per il presidente di un'assemblea non mi sembra rientrare nello scandalo. Quindi, poi ne ha diritto, l'auto blu. Il caso nazionale lo costruiamo, sì. Però non mi sembra che io rientri in questa. Ma perché non è? Allora, c'è nel regolamento, ma perché il presidente del Consiglio regionale ha diritto a un'auto blu? Mi tolga questa curiosità. Presidente non è che ha diritto ad un'auto blu. Attualmente il regolamento del Consiglio regionale prevede l'assegnazione di un'auto al presidente del Consiglio regionale, questo stavo ai dicendo. Due vicepresidenti. E quello stavo dicendo. Diritto perché c'è scritto in un regolamento. Certo, che lo prevede un regolamento. Ma le sembra giusto? Le sembra normale? Le sembra consono alla situazione attuale? Con l'approvazione di quest'ordine del giorno, che è stato ieri sera, diciamo così, approvato dall'Assemblea. Da stamattina, quindi io già ieri sera ho provveduto a convocare l'ufficio di presidenza, sì. Perché ho avuto un mandato molto preciso e chiaro da parte dei consiglieri, dalla maggioranza dei consiglieri regionali, di attuare ed applicare alcune deliberazioni per quanto riguarda la revoca definitiva delle associazioni, delle assegnazioni, sì. Delle quante ne toglierà? A chi le toglierà, per esempio? Il Consiglio regionale ha dato mandato di revocare le auto a tutti i presidenti delle commissioni, a tutti i componenti dell'ufficio di presidenza. Quindi gli altri. E direttore Orfeo, basterà? Cioè, come finirà questa vicenda? O si spegneranno i riflettori o si abbasserà un po' l'attenzione mediatica ed è stata tutta una dichiarazione anche molto forte da Polverini, ma finirà in nulla? Ma mi auguro proprio di no. Noi comunque da parte nostra vigileremo tutti i giorni perché questo non avvenga, nel senso che saremo lì tutti i giorni a seguire i lavori del Consiglio regionale, sperando appunto che l'attività sia un po' più intensa di quella che è stata finora, e controlleremo che questi tagli annunciati siano portati a termine, perché ieri è stato firmato un ordine del giorno, adesso venerdì ci sarà poi il voto sulla spending review del Lazio, dal quale ci attendiamo appunto dei fatti concreti. A me dispiace che il presidente abruzzese continui a dire c'è un messaggio, si vuole trasmettere un messaggio, come si sa quale complotto congiura nei confronti del Lazio. Devo dire che io sono un amante della politica, a me piace la politica, seguire la politica non ho mai cavalcato l'onda dell'antipolitica. Il problema sono loro, sono i politici che sono i più grandi sponsor i più grandi produttori di spot per l'antipolitica. E che lei, che diceva ieri Orfeo, credo, in una trasmissione, le diceva ad abruzzese qui che guadagna più di Obama, che è vero, è il dato di fatto. Abbiamo calcolato che tra lo stipendio, le 16-18 segretarie, le tante consulenze e appunto le spese di rappresentanza, guadagna alla fine il presidente del Consiglio regionale Obama. Del Lazio, adesso non voglio personalizzare, adesso è abruzzese, ma chiunque la figura, il presidente, anche quello che l'ha preceduto, perché diciamo questa è una storia che va avanti da anni, guadagna come presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco, lei ha citato, diciamo, lei direttore, questa dei 18 che, non segretari ma collaboratori, credo che abruzzese le chiami così. È vero che lei ha 18 collaboratori nell'ufficio di presidenza? Il nostro regolamento prevede l'assegnazione di queste persone, presidente, ma lei cita il regolamento come se fosse il totem le volte assolutissimamente. Le voglio dire che per modificare le norme abbiamo bisogno del consenso. Questo, e fatelo, cioè nel senso consenso allora, vostro domani, in consiglio regionale. Allora, le sto dicendo che ho ovviamente convocato questa mattina l'ufficio di presidenza per dimezzare le spese per quanto riguarda il rapporto eletto-elettore, quindi l'articolo 8 della legge regionale numero 14 che prevede un'assegnazione di 4.190 euro, che verrà dimezzato, verrà ridotto del 50%, come verrà in qualche modo bloccato e revocato tutti i finanziamenti ai gruppi consigliari. Ma è vero, questo, ma è vero che ci sono. Lo facciamo direttamente questa mattina alle ore 11. Va bene, però me lo dica con un. Perché lei l'ha già detto, il regolamento prevede che ci siano 18 collaboratori all'ufficio di presidenza. Esatto. 18. Sì, ma l'ufficio di presidenza, guardi, ha il compito di assistere i 378 comuni del Lazio, le 5 province, quindi c'è un lavoro molto intenso da seguire, quindi non è un ufficio di un consigliere regionale, quindi è un ufficio ovviamente di una presidenza di un'assemblea regionale. Però presidente, la domanda che si fanno molti è questa: come vede, lei ci sta dicendo avete convocato per tagliare, per esempio dimezzare questa cifra dei 4.000, no, mi faccia dire, perché viene fatto tutto questo dopo che la magistratura interviene e c'è uno scandalo? Vede che si può dimezzare. Lei ha ragione, ci mancherebbe, certo che si può dimezzare, però ieri sera è stato approvato un ordine del giorno e quest'ordine del giorno mi dà la forza per poter fare questo. Ma sempre quando qui vogliamo far passare un messaggio, e chiedo scusa, non ce l'ho con Mario Orfeo, tra l'altro è l'anno dei Mario quest'anno. Vabbè. Quindi le dicevo, volevo sempre. Non voglio far passare un messaggio sbagliato. È come dire che la responsabilità dei non tagli dei parlamentari è colpa di Finetti Schifani, insomma, non la vogliamo mettere sulla graticola. Scusa, ma ci mancherebbe, non mi ci sento, le dico. Ecco, le dico, ma il problema è che si fa tutto con i buoi scappati. Anche perché sono una persona trasparente, anche perché, caro Milan, io ho lavorato fino all'anno 2010, non ho mai vissuto di stipendi della politica, tanto per essere chiari, anche questo può essere tranquillamente certificato attraverso i contributi e gli estratti contributivi dell'INPS. Detto questo, è chiaro che oggi io ho una forza maggiore, perché ho è stato approvato. Un'assemblea che mi dice: caro presidente, puoi fare il dimezzamento delle somme di cui all'articolo 8, l'azzeramento dei fondi ai gruppi, la revoca di investimenti in conto capitale, la revoca delle auto blu, la pubblicità immediata. E queste cose, perché nessuno ne parla. No, ma certo, ma certo, anche, ma certo. Scusa, mi faccio completare il mio ragionamento. Il dimezzamento delle commissioni consigliari da 20, 19 a 10. Per fare questo ci vuole il consenso. Ci voleva ci voleva la forza. No, ma io vi ringrazio. Il problema è che la gente dice si fa sempre quando i buoi sono scappati. Comunque ringrazio il direttore del Messaggero Mario Orfeo e il presidente del Consiglio regionale del Lazio, che è sempre disponibile a venire qui a battagliare, Mario Abruzzese, e ci troviamo domattina alle 6:30.